ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Amore mio, hai già mangiato o no? Ho fame anch'io. E non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so, cosa tu vuoi sapere? Nessuna, no. Solo ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica. Ancora tu, l'incorreggibile. Ma lasciarti non è possibile. No, lasciarti non è possibile. Lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Troppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più.